Euroreportage. La Polonia nella politica estera UE. Il caso Ucraina di Sergio Nava. Buongiorno da Varsavia. Oggi vi salutiamo dal Palazzo della Cultura e della Scienza, che si trova proprio al centro della capitale polacca. Fu allora, quando venne costruito circa 60 anni fa, un dono da parte dell'allora Unione Sovietica. Oggi invece, come vedremo, i rapporti tra Polonia e la Russia sono ben più tesi. La storia, come impareremo, può cambiare radicalmente corso nel giro di pochi decenni. Andiamo allora a capirne di più. La prima tappa della nostra inchiesta sul ruolo che la Polonia ricopre nella politica estera europea dopo la crisi ucraina ci porta così al Ministero degli Esteri di Varsavia. Collocato in un quartiere semicentrale della capitale, si trova nei pressi dell'ex ambasciata russa e dell'attuale ambasciata ucraina. Qui le foto esposte all'esterno dell'edificio ricordano i patrioti morti nei turbolenti mesi di Piazza Maidan. Dopo una breve attesa incontriamo Rika Oshika Dendis, sottosegretaria agli affari esteri con delega agli affari europei. Poland is a country traditionally interested in strengthening the EU foreign policy. La Polonia è un paese tradizionalmente a favore del rafforzamento della politica estera europea, ci dice. Se l'Unione riesce a parlare con una sola voce, ciò aumenta l'impatto della sua forza. Per questo speriamo che le nuove istituzioni elette alla fine del 2014 cooperino maggiormente, portando a posizioni più unitarie i paesi membri. Le sfide sono legate soprattutto alla sicurezza. Siamo molto fiduciosi della cooperazione che avremo con Federica Mogherini. Confidiamo che l'attuale presidente europeo Tusk e l'alto rappresentante Mogherini saranno un buon team, afferma la sottosegretaria. Lei vede un'Europa che parla con una voce sola sulla Russia, le chiediamo a bruciapelo? Sì, abbiamo avuto abbastanza successo, siamo orgogliosi di questa azione coerente, ci dice. Siamo stati capaci di trovare un consenso basilare sulle linee rosse. Siamo molto contenti che l'Europa sia riuscita a parlare con una sola voce e rimanere unita, anche se magari non si è spinta fin dove alcuni paesi chiedevano. Per la Polonia, mi creda, la coerenza e l'azione unitaria dell'Europa è la cosa più importante, dice Rika Oshika Dendis. Qual è la strategia a medio-lungo termine, secondo la Polonia, nei rapporti con la Russia e nella crisi ucraina, le chiediamo? Questa è una domanda molto difficile, penso che la risposta sia nelle mani di Mosca. La chiave di volta di qualsiasi progresso risiede nella de-escalation del conflitto nell'Ucraina orientale. A Minsk abbiamo elaborato una serie di azioni che non sono state ancora implementate, ci risponde. Qual è la vostra posizione sul futuro dell'Ucraina? Deve divenire parte dell'Unione Europea o no? La nostra posizione è che l'Ucraina debba avere la libertà di scelta su quale direzione intende intraprendere. Se Kiev decidesse di guardare a Occidente implementando riforme che la portino più vicina alla famiglia europea, dovremmo solo esserne felici. Noi, come paese vicino dell'Ucraina, abbiamo un interesse a che ciò avvenga, affinché Kiev si trasformi, come ha fatto la Polonia negli anni 90. Noi consideriamo l'Ucraina parte dell'Europa. Intendiamo sostenere il governo di Kiev nel suo sforzo riformatore. Ma sta agli ucraini decidere. In ogni caso, è nel comune interesse europeo sostenere questi sforzi, in quanto questo ci garantisce un vicinato stabile. Una domanda molto diretta, sottosegretario. La Polonia ha giocato un ruolo nel cambio repentino di governo a Kiev con la cacciata di Yanukovych? No, obviously not. This no, is not ovviamente a, no. Questo è qualcosa che nessun governo straniero può fare. Any foreign government should be involved, no. E se dovesse scegliere un aggettivo per definire le attuali relazioni tra Polonia e Russia? Difficult. Difficili, risponde il sottosegretario dopo aver soppesato minuziosamente il termine. E con l'Italia le chiediamo, per voi la posizione italiana sulla Russia, tradizionalmente più morbida rispetto a quella polacca, rappresenta un problema? Le posizioni italiane sulla Russia non le definirei un problema, possono richiedere più contatti bilaterali e spiegazioni reciproche, ma penso che abbiamo una buona intesa nelle rispettive posizioni. Abbiamo anche molto apprezzato che l'alto rappresentante Mogherini si sia recata subito in Polonia, proprio per discutere la futura agenda politica comunitaria in politica estera, conclude Enrica Moscica Dennis. To discuss the future European agenda in terms of foreign policy. A Varsavia, osservatori indipendenti argomentano che la nomina di Donald Tusk, ex premier polacco, a presidente del Consiglio europeo sia stata anche una sorta di ringraziamento e ricompensa per il ruolo avuto dalla Polonia nel cambio di governo in Ucraina. Cambio di governo fortemente voluto a Washington, di cui Varsavia è un alleato fedele. Chi invece starebbe facendo affari d'oro con le sanzioni contro la Russia è la Bielorussia di Aleksandr Lukashenko, padre e padrone di quella che viene definita l'ultima dittatura d'Europa. Non solo Lukashenko si atteggia a grande mediatore e diplomatico, vedi gli accordi di Minsk, ma ingresserebbe le proprie ricchezze grazie a un trucco che in Polonia tutti conoscono. Poiché dallo scorso agosto Mosca ha vietato l'import di quasi tutti i prodotti alimentari europei, la Bielorussia li fa arrivare ai propri confini, poi li rietichetterebbe come Made in Bielorussia, esportandoli in piena legalità a Mosca. Il tutto non gratis, ovviamente, e Lukashenko ringrazia. Per noi è il momento di spostarci al Parlamento polacco, il Sejm, dove nella nostra inchiesta sull'influenza di Varsavia nella politica estera europea intervistiamo Anna Pomaska, giovane presidentessa della Commissione Affari Europei. La Pomaska appartiene al partito di governo Piattaforma Civica. L'Ucraina è uno dei temi di cui ci stiamo occupando. Solo 25 anni fa la Polonia e l'Ucraina si trovavano allo stesso livello. Ora non è più così. C'è un'enorme differenza. Noi siamo l'esempio di come un paese possa svilupparsi grazie all'Unione Europea. Quanto la nomina di Donald Tusk ha cambiato e cambierà la presenza polacca sul palcoscenico europeo? Che tipo di leadership ci dobbiamo aspettare? Le chiediamo. Siamo stati molto orgogliosi della sua elezione. Io penso sia stata una buona scelta. Credo che sarà molto attivo. La sua esperienza e il suo ruolo come ex primo ministro sono un valore aggiunto. È molto ambizioso. Penso userà tutta questa ambizione per servire l'Europa. L'Europa sarà molto migliore tra 5 anni, aggiunge lei con una certa iperbole. Probabilmente vedremo con lui un diverso stile di leadership. È un uomo molto carismatico. Dopo il 1989 è stato il primo premier polacco ad essere rieletto, conclude Anna Pomaska. He was the first prime minister who got re-elected. His party got re-elected. Nella sua prima intervista da presidente del Consiglio europeo, Tusk ha menzionato chiaramente la crisi ucraina e le relazioni con gli Stati Uniti, due pilastri dell'agenda politica polacca. Vedremo questi temi come prominenti anche nell'agenda europea? Sì, sono temi molto dibattuti qui in Polonia, ma penso che fosse abbastanza ovvio che Tusk cominciasse ponendosi degli obiettivi, e questi obiettivi sono anche obiettivi europei. To have some goals, and these two goals are quite obvious, I guess, for the whole Europe. Sul tema ucraino, la Polonia ha una posizione abbastanza forte verso la Russia. Vede una convergenza di posizioni con l'Europa e i suoi paesi membri. Ora vediamo come diversi paesi europei abbiano cambiato la propria posizione verso la Russia, anche se non del tutto. Non è insomma ancora così ovvio a tutti che la Russia non sia un partner onesto. Mosca vuole dividerci, non vuole avere un'Europa forte. La cosa più importante ora è parlare con una sola voce verso la Russia. La cosa peggiore che possiamo fare è dividerci. Insomma, le chiediamo, della Russia non vi fidate proprio? Certo che non ci fidiamo, e oggi ancora di più. Abbiamo molti esempi a sostegno. Le dirò una cosa, molti leader europei erano scettici sulle sanzioni, ma ora vediamo che funzionano, che l'economia russa è in grande difficoltà a causa di queste sanzioni. Penso che sia la direzione giusta, quella intrapresa. We see that Russian economy is in trouble because of that and because of this common voice. Per chiudere chiedo ad Anna Pomaska quale sia la visione polacca. Kiev dovrebbe divenire parte dell'Unione Europea in futuro? Abbiamo già discusso l'accordo di associazione Europa-Ucraina nel Parlamento polacco e lo abbiamo ratificato. I leader ucraini hanno una chiara direzione pro-europea, anche perché hanno davanti il caso di successo polacco in termini economici e sociali. Sono certa che la direzione europea sia quella giusta e dobbiamo aiutarli. L'adesione di Kiev all'Unione Europea è un progetto ambizioso, ma penso debba essere l'obiettivo. Vediamo, per cominciare, come funzionerà l'accordo di associazione. And it's important to have a very ambitious goal. E per una visione esterna delle questioni di politica estera, incontro alla fine del mio reportage in un bar del centro di Varsavia il giornalista Bartosz Panek, collega di Polskie Radio. A Bartosz chiedo subito, per cominciare, quale ruolo giochi Varsavia nei rapporti Europa-Russia? Questo problema entra nella questione dei rapporti tra la Polonia e la Russia, che sono sempre state difficili, sempre. E c'è un tentativo di credere che Tusk, come il nuovo presidente del Consiglio europeo, cambi qualcosa, migliori qualcosa. faccia un compromesso con Mosca e con tutte le capitali dell'Unione Europea. E io personalmente non lo so. Che tipo è Tusk? Secondo me soprattutto è cinico. È stato cinico come un grande dall'altra parte politico polacco, grande nel senso del suo leadership, anche carismatico, però dato che la piattaforma civica, cioè il suo partito, non è unica, nel senso non è è un amalgamento di diversi ali, più conservatori, più liberali, più cristiani, più ateisti, così via. Tranne Jarosław Gowin, la sua uscita dalla piattaforma, è riuscito di salvare questo partito, salvare tra virgolette, di non lasciare questo partito a rompere in pezzi. E questo ci può dire che ha un'abilità di promuovere i compromessi. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.